I Germant non erano meno speciali sotto il profilo intellettuale che sotto quello fisico. A parte il principe Gilbert, il marito di Marie Gilbert, che era di idee tanto antiquate da far sedere la moglie quando andavano a passeggio in carrozza alla sua sinistra perché era di sangue meno nobile, sebbene reale, del suo, ma costituiva un'eccezione e la famiglia in sua assenza ne faceva un bersaglio di scherzi e di sempre nuovi aneddoti, i Germant, pur vivendo in mezzo al fior fiore dell'aristocrazia, affettavano una totale noncuranza per la nobiltà. Le teorie della duchessa di Germant, la quale, per dire il vero, a forza d'essere Germant, diventava in certa misura qualcosa di diverso e di più gradevole, mettevano l'intelligenza talmente al di sopra di tutto ed erano in politica così socialiste che ci si chiedeva dove, nel suo palazzo, si nascondesse il genio incaricato d'assicurare la continuità della vita aristocratica e che, sempre invisibile, ma evidentemente acquattato ora nell'anticamera, ora in salotto, ora nella toilette, ricordava ai domestici di quella donna, che non credeva ai titoli, di chiamarla signora duchessa, a quella persona che amava solo la lettura e detestava le convenzioni, di andare a pranzo dalla cognata alle 8 precise, ma non prima di aver indossato all'uopo un abito da sera. Lo stesso genio di famiglia prospettava a Madame de Germant la condizione delle duchesse, perlomeno delle prime fra loro e multimilionarie come lei, il sacrificio di recarsi a noiosi tè, pranzi fuori casa, ricevimenti, tutte ore durante le quali avrebbe potuto leggere tante cose interessanti, come sgradevoli necessità analoghe alla pioggia, e che Madame de Germant accettava esercitando su di esse il suo spirito beffardo, ma senza mai chiedersi perché le accettasse. La curiosa combinazione che il maggiordomo dicesse sempre «signora duchessa, quella donna che credeva solo all'intelligenza», non sembrava, nonostante tutto, colpire Madame de Germant. Mai le era passato per la testa di dirgli che la chiamasse semplicemente signora. Spingendo a limiti estremi la buona volontà, si sarebbe potuto supporre che, distratta, sentisse solo signora e le sfuggisse l'aggiunta di quell'appendice verbale. Ma, ammesso che facesse la sorda, è un fatto che non era muta e, ogni volta che doveva comunicare qualcosa al marito, diceva al maggiordomo «Ricordate al signor Duca». Il genio di famiglia aveva del resto altre occupazioni, per esempio quella di ispirare i discorsi morali. C'erano, certo, dei Germant più particolarmente intelligenti e dei Germant più particolarmente morali, e di solito non erano gli stessi. Ma i primi, persino un Germant che aveva commesso dei falsi e barava il gioco, ed era il più delizioso di tutti, aperto a tutte le idee nuove e giuste, discettavano di morale ancor meglio dei secondi, e allo stesso modo di Madame Delville Parisi, nei momenti in cui il genio di famiglia si esprimeva per bocca della vecchia signora. In momenti identici, li si vedeva adottare di colpo un tono quasi altrettanto vecchiotto, altrettanto bonario e, grazie al loro maggior fascino, più commovente di quello della marchesa, per dire di una domestica «Si sente che, come fondo, è buona, non è una ragazza ordinaria, deve essere figlia di persone per bene, sicuramente non ha mai lasciato la retta via». In quei momenti il genio di famiglia si faceva intonazione, ma a volte era anche giro della frase, espressione del volto, lo stesso sia nella duchessa che in suo nonno il maresciallo. Una sorta di impercettibile convulsione, simile a quella del serpente, il genio cartaginese della famiglia Barca, a causa della quale ero stato più volte preso dal batticuore quando, nelle mie passeggiate mattutine, prima ancora di riconoscere Madame de Germant, mi ero sentito guardato da lei dal fondo di una piccola latteria. Il genio era intervenuto in una circostanza che era stata tutt'altro che indifferente non solo ai Guermantes, ma anche ai Courvoisier, parte avversa della famiglia, e, sebbene di non meno nobile sangue rispetto ai Guermantes, tutto l'opposto di loro. Anzi, è dalla nonna Courvoisier che Guermantes facevano dipendere la fissazione del principe di Guermantes di battere sempre nei suoi discorsi su nascita e nobiltà come se non ci fosse nient'altro al mondo. Non soltanto i Courvoisier non attribuivano all'intelligenza lo stesso rilievo dei Guermantes, ma non ne avevano la stessa idea. Per un Guermantes, fosse anche uno stupido, essere intelligenti voleva dire possedere un forte spirito critico, essere capace di dire cattiverie, di parlare chiaro con tutti, potervi tenere testa indifferentemente sulla pittura, sulla musica, sull'architettura, parlare inglese. L'idea dell'intelligenza che si facevano i Courvoisier era meno positiva e, se appena non s'apparteneva al loro mondo, essere intelligenti non era lontano dal significare avere probabilmente assassinato i genitori. Per loro l'intelligenza era una specie di grimaldello, grazie al quale persone di cui non si conoscevano né padre né madre forzavano le porte dei salotti più rispettabili e Courvoisier non ignoravano che si finisce sempre col pentirsi d'aver ricevuto simili arnesi. Alle più insignificanti affermazioni delle persone intelligenti che non appartenevano al gran mondo, i Courvoisier opponevano una diffidenza sistematica. Qualcuno, una volta, aveva osservato: «Ma Swann è più giovane di Palamède. Questo, almeno, è quel che vi dice lui, e se ve lo dice, state pur certo che ci avrà il suo tornaconto», aveva replicato Madame de Gagliardon. Peggio ancora, sentendo dire, a proposito di due straniere molto eleganti ricevute dai Guermantes, che s'era fatta passare per prima una delle due perché era la maggiore d'età, «Ma siamo sicuri che sia la maggiore?» aveva chiesto Madame de Gagliardon, non come se, positivamente, persone di quel genere non avessero età, ma come se, verosimilmente prive di stato civile e religioso, di tradizioni sicure, esse fossero tutte più o meno giovani, come i gattini di uno stesso cesto, fra cui solo un veterinario potrebbe raccapezzarsi. D'altronde, in un certo senso, i Courvoisier mantenevano meglio dei Guermantes l'integrità dell'aristocrazia, grazie all'angustia della loro mente e, insieme, alla malvagità del loro cuore. Così i Guermantes, per i quali al di sotto delle famiglie reali e di poche altre come i Ligne, i La Tremaille, eccetera, tutto il resto si confondeva in una vaga minutaglia. Trattavano con insolenza gente di antico lignaggio che abitava nei dintorni di Guermantes, proprio perché trascuravano i meriti di secondordine di cui si occupavano moltissimo i Courvoisier e alla cui assenza essi non davano alcuna importanza. Certe donne che non avevano nella loro provincia un rango particolarmente elevato, ma erano brillantemente sposate, ricche, belle, amate dalle duchesse, erano per Parigi, dove si è poco al corrente di padri e madri, un eccellente ed elegante articolo d'importazione. Poteva succedere, anche se di rado, che donne del genere venissero, tramite la principessa di Parma o in virtù delle loro proprie attrattive, ricevute da qualche Guermantes. L'indignazione dei Courvoisier nei loro riguardi, invece, non disarmava mai. Incontrare fra le 5 e le 6, in casa della cugina, persone con i cui genitori i loro genitori non amavano avere a che fare nel Perche diventava per loro un motivo di rabbia crescente e un inesauribile tema di sfoghi verbali. Dall'istante in cui, per esempio, l'affascinante contessa G entrava nel salotto de Guermantes, il volto di Madame de Villebon assumeva né più né meno l'espressione che avrebbe dovuto assumere per recitare il verso «E se un solo restasse, io sarò quello», verso che le era peraltro sconosciuto. Questa Courvoisier aveva trangugiato quasi ogni lunedì degli éclair traboccanti di crema a pochi passi dalla contessa G, ma senza risultato. E Madame de Villebon confessava in gran segreto che non riusciva a concepire come sua cugina Guermantes ricevesse una donna che, a Châteaudun, non apparteneva nemmeno al secondo rango della società. «Non vale davvero la pena che mia cugina faccia tanto la difficile sulle sue relazioni. Questo è prendere in giro la gente», concludeva Madame de Villebon con un'altra espressione in volto, quella del sorridente sarcasmo nella disperazione cui si sarebbe stati indotti ad applicare, nel gioco degli indovinelli, quest'altro verso che la contessa naturalmente non conosceva più del primo. «Grazie, o dei, in me il dolore soverchia la speranza». Del resto, concedendoci un'anticipazione sugli avvenimenti, possiamo dire che la perseveranza, che nel verso seguente rima con speranza, di Madame de Villebon nello snobbare Madame G, non fu del tutto inutile. Agli occhi di Madame G, essa dotò Madame de Villebon di un tale prestigio, peraltro puramente immaginario, che quando la figlia di Madame G, la fanciulla più bella e più ricca dei balli dell'epoca, fu in età da marito, tutti i duchi si videro, con grande sbigottimento, rifiutare la sua mano. Il fatto è che sua madre, ricordando i soprusi settimanali sopportati in Rue de Grenelle nel ricordo di Châteaudun, aveva una sola vera aspirazione per il matrimonio di sua figlia, uno dei ragazzi Villebon. L'unico punto sul quale Guermantes e Courvoisier si incontravano era l'arte, d'altronde infinitamente variata, di sottolineare le distanze. Le maniere dei Guermantes non erano in tutti loro completamente uniformi, ma, per esempio, tutti i Guermantes, quelli che lo erano veramente, quando si presentava loro qualcuno, procedevano a una sorta di cerimonia, pressappoco come se il fatto di tendergli la mano fosse non meno considerevole che se si trattasse di consacrarlo cavaliere. Non appena un Guermantes, che magari aveva solo 20 anni, ma già seguiva le orme dei suoi maggiori, sentiva il vostro nome pronunciato dal presentatore, lasciava cadere su di voi, come se fosse tutt'altro che sicuro di dovervi salutare, uno sguardo generalmente azzurro e sempre freddo come un acciaio pronto a penetrarvi sin nei più profondi recessi del cuore. Ed è, del resto, ciò che i Guermantes erano realmente convinti di fare, ritenendosi tutti degli psicologi di prim'ordine. Pensavano inoltre di accrescere, con tale ispezione, l'amabilità del successivo saluto, che non vi sarebbe stato elargito che a ragion veduta. Il tutto avveniva a una distanza da voi che, esigua in funzione di un eventuale duello, sembrava enorme per una stretta di mano e produceva nel secondo caso un effetto non meno agghiacciante di quello che avrebbe prodotto nel primo, di modo che quando il Guermantes, compiuto un rapido giro nelle pieghe più riposte della vostra anima e della vostra onorabilità, vi aveva infine giudicato degno di conoscerlo, la sua mano, dirigendosi verso di voi all'estremità di un braccio steso per tutta la sua lunghezza, sembrava presentarvi un fioretto per una singolar tenzone, ed era, insomma, in quel momento così lontana dal Guermantes che riusciva difficile capire, quando questi chinava la testa, se stesse salutando voi o la sua stessa mano. Certi Guermantes, privi del senso della misura, o incapaci di non ripetersi continuamente, esageravano, rinnovando la cerimonia ogni volta che vi incontravano. Dato che non occorreva più procedere preliminarmente all'inchiesta psicologica delegata loro dal genio di famiglia e di cui dovevano ricordare i risultati, l'insistenza dello sguardo perforatore che precedeva la stretta di mano poteva spiegarsi soltanto con l'automatismo acquisito dal loro sguardo o con qualche dono di fascinazione che fossero convinti di possedere. I Courvoisier, che erano diversi nel fisico, dopo aver invano tentato di assimilare quel saluto scrutatore, avevano ripiegato sulla rigidezza altera o la negligenza frettolosa. In compenso, era dai Courvoisier che alcune rare Guermantes sembravano aver attinto il modello del saluto femminile. Quando vi si presentava una di queste Guermantes, infatti, lei si esibiva in un grande inchino che avvicinava a voi, secondo un angolo di circa 45 gradi, la testa e il busto, mentre la parte inferiore della figura, notevolmente alta, fino alla vita che faceva da perno, rimaneva immobile. Ma aveva appena proiettato verso di voi la metà superiore del corpo che già, con un brusco scarto più o meno della stessa ampiezza, la rigettava indietro oltre la verticale. Il rovesciamento consecutivo neutralizzava ciò che in apparenza vi era stato concesso. Il terreno che avevate creduto di guadagnare non restava acquisito nemmeno secondo le regole del duello. Tutto tornava alle posizioni di partenza. Lo stesso annullamento della gentilezza attraverso il ristabilimento delle distanze, che era d'origine Courvoisier e destinato a mostrare che le profferte fatte nel primo movimento erano solo una finta effimera, emergeva con pari chiarezza, nelle Courvoisier come nelle Guermantes, dalle lettere che ricevevate da loro, almeno durante le fasi iniziali della conoscenza.